tocca alla rubrica dei cuori infranti. Ho sentito nel precedente podcast che vi occuperete anche delle scuole private. Mi viene quindi da porre una domanda. Io sono di sinistra e sono una sostenitrice della scuola pubblica, ma, viste le circostanze, ho iscritto mio figlio alla scuola elementare privata in centro. Credo che se avrà come compagni di scuola i figli dei direttori di banca, avrà più chance in futuro. E io voglio il meglio per mio figlio, il quale dovrà crescere in questa società competitiva e spietata. Cosa ne pensi? Dolly, da Milano. Cara Dolly, grazie della tua lettera. Viste le circostanze e l'approccio, suggerirei di iscrivere tuo figlio alla scuola militare. In futuro avremo sempre più bisogno di soldati. Ma tu come fai a stare sveglia, a stare aperta, se dicono che ciascuno ha i suoi guai? L'11 settembre è un momento di svolta perché è il momento in cui si manifestano dei passaggi culturali decisivi dal mondo militare al mondo, fra virgolette, civile. Lo dico tra virgolette perché appunto noi, come già stato anticipato, ci muoviamo in un'ottica della cosiddetta doppia conversione, cioè come sull'onda di quello che diceva Alessandro Dallago, quindi in una società in cui questo militarismo è sempre più diffuso e c'è una sovrapposizione delle funzioni civili e militari in continuazione, quindi con l'utilizzo di forze militari per la gestione di ordine pubblico all'interno di un paese, e dall'altra parte pensiamo alla terminologia che si utilizza per l'intervento all'estero, al di là proprio delle cose peacekeeping, polizia internazionale, quindi con questa sovrapposizione continua, che è figlia di un militarismo sempre più diffuso, che riguarda tutta la nostra società. Si va dal militarismo più esplicito, quindi col periodico aumento dei fondi per all'interno del bilancio della difesa, ma c'è un passaggio di elementi culturali dal mondo della guerra al mondo, diciamo, quotidiano, continuo. Poi vado velocissimo per quanto riguarda i film, i reality, non ne parliamo, da quelli più espliciti. Abbiamo reality per i nostri giovani che si chiamano La Caserma e Il Collegio, per non parlare dei videogames a contenuto militare, ma non solo, scuola. Non ne parlo, chi lavora nella scuola lo sa bene, basta guardare le dichiarazioni del ministro dell'istruzione che pone al centro, e questo non è stato secondo me sottolineato abbastanza, è davvero al centro della cultura militare la pedagogia dell'umiliazione. Oggi ci torneremo, non è una battuta, cioè una buona parte della pedagogia addestrativa si centra su questo elemento, fino ad arrivare all'università. Qua ci sarebbe da stendere un velo pietoso, però due cose le devo dire perché sono coinvolto direttamente. Il coinvolgimento di Leonardo, l'industria militare più importante che c'è in Europa, è credo dodicesima arrivata a livello mondiale, è veramente che è pervasiva all'interno delle nostre università. Leonardo, e qui torniamo sul tema della trasversalità, destra, sinistra, cioè Leonardo è stata storicamente controllata dal PD, ex senior advisor di Leonardo e Crosetto. Qui del conflitto di interessi economico veramente mi interessa poco, il tema è culturale. Leonardo è dentro le nostre università in modo decisivo. Leonardo ha delle fondazioni culturali, cioè che hanno per statuto scritto nel loro statuto che si devono occupare della diffusione dei valori di Leonardo S.P.A., cioè l'industria di armi, nella società civile. Di una almeno di queste due fondazioni culturali, ovviamente una è presieduta da Menniti e un'altra da Violante, per capire. Ma all'interno del comitato scientifico di una di queste due fondazioni culturali che si preoccupano per statuto di diffondere la cultura di Leonardo, che loro sposano per statuto rispetto ai valori, eccetera, eccetera, ci sono 17 rettori delle università italiane, tra cui, parlando di Milano, la Cattolica, il Politecnico, quindi... Ecco, ciao a tutti, un'altra puntata del podcast di Franti. Ho voluto iniziare con questo pezzo perché che è una intervento, un pezzo di un intervento che Charlie Barnau ha fatto quest'estate qua al Centro Sociale Conchetta durante la presentazione di un libro sul carcere, perché ci permette di introdurre la questione del progressivo aumento delle questioni militari nella vita civile. Sono tempi di guerra. Abbiamo iniziato nel 2020 con la pandemia e la guerra era solo un aspetto terminologico, ricopriva solo l'aspetto terminologico. Poi vi è stato l'inizio del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, adesso è scoppiato il Medio Oriente. È ben chiaro a tutti che questa guerra non si gioca coi droni, o quantomeno non solo coi droni, perché moltissime sono le trincee, le gallerie, i buchi in cui i combattenti si ammazzano fisicamente l'uno con l'altro. E questa guerra qua, che si poteva pensare che fosse una prospettiva di averla tutto virtuale, in realtà c'ha, come le guerre del Novecento, un portato di morte fisica e di sofferenza enorme. Per questa ragione è necessario che si produca del consenso che innanzitutto permetta l'alimentazione economica di queste strutture di guerra, ma che in secondo luogo renda disponibile in un futuro prossimo la carne viva che potrebbe dover andare a combattere fisicamente. E cosa di meglio che partire dai ragazzi, partire dalle scuole, ragazzi che si pensa che non abbiano ancora, come dire, una formazione precisa o delle determinazioni così fondate e certe, e che quindi siano più malleabili a questo genere di formazione. E, di fatto, ci sono diversi accordi, sono stati fatti tra il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Istruzione, vi sono diversi casi già in cui i militari entrano nelle scuole per fare delle attività, o gli studenti vanno nelle caserme per fare delle altre genere di attività. Negli incontri di formazione e di orientamento, quello della carriera militare è uno dei tanti possibili percorsi che vengono presentati agli studenti. Perfetto, allora nel corso di questi mesi si è andato formando un osservatorio, che è l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, di cui adesso parleremo con Riccardo, che è presente qua, e Candida, che invece abbiamo in collegamento a Palermo. Ciao Riccardo, ciao Candida, ciao. E Andrea, ciao. Che farà un po' da mastro di cucina. Passerei la parola a Riccardo perché incominci a spiegare un pochino cos'è questo osservatorio. Ok, grazie, ciao. In realtà già Tommaso avrebbe presentato l'osservatorio, perché le finalità sono proprio quelle che diceva lui. Ha fatto una lettura chiara di quello che sta diventando, no? la società in generale, la militarizzazione dei territori e delle scuole è ormai un dato di fatto. Questa idea dell'osservatorio nasce a seguito di una serie di convegni che abbiamo fatto nelle scuole, in convegni di formazione attraverso il CESP, il Centro Studi Scuola Pubblica, che è un'emanazione, diciamo così, dei COBAS della scuola. Per iniziativa di alcune sedi dei COBAS scuola abbiamo fatto una serie di convegni a partire da Napoli e poi in una ventina di città in tutta Italia, questi convegni di formazione cui titolo era La scuola laboratorio di pace. Era appena scoppiata la guerra in Ucraina e noi non ci siamo stati a quella narrazione, no? A quella scelta di campo che ci volevano propinare, per cui stai con l'aggressore o con l'aggredito. In realtà abbiamo voluto fare un altro discorso, no? Abbiamo cercato di scavare, no? All'interno di queste prassi, per individuare quello che ormai è diventato, come dire, un modus, no? Da parte della del potere, diciamo così, di catapultarsi nella scuola, come diceva Tommaso, che è meglio, no? che non formare direttamente le giovani menti, i bambini, i ragazzi, ad accettare la guerra stessa. Quindi alla fine di questi convegni ci siamo un po' interrogati, no? su cosa noi potessimo fare per smascherare questo disegno. E quindi è venuta fuori l'idea dell'osservatorio, quindi osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, si spiega anche da solo volendo, no? Il nostro scopo è proprio quello di far venire alla luce tutti questi tentativi e tutte queste pratiche all'interno delle scuole. Ne abbiamo tantissimi di esempi, già Tommaso vi citava, io per esempio lavoro in provincia di Varese, che è una provincia tristemente famosa da questo punto di vista perché abbiamo una base NATO, a Sobbiatolona, abbiamo l'aeroporto di Malpensa, alcuni istituti, e quindi grossi, che è internazionale, in provincia di Varese, alcuni istituti, in particolare del Gallaratese, che lavorano a stretto contatto sia con la NATO che con l'aeronautica, in particolare scuole che hanno l'indirizzo aeronautico, alla fine collaborano con le strutture militari. Le abbiamo denunciate, ad esempio una scuola, sto Falcone di Gallarate, abbiamo denunciato loro fanno addirittura l'ex alternanza scuola-lavoro, ora si chiama PCTO, questo è un istituto alberghiero, non ci sarebbe alcuna necessità, no, da quel punto di vista, anche se volessimo accettare questa forma, no, di trasmissione, però vanno alla base NATO a fare da camerieri, no, a servire i banchetti dentro la base NATO. E i militari della base NATO poi vanno a ringraziare la scuola, si portano dietro i gadget, i cappellini, noi siamo nati, we are nato, gadget, appunto, con quella ottica, no, di presentarsi all'interno delle scuole con la faccia buona, no, di chi fa le cose. Altri istituti, tipo questo Ponti, sempre di Gallarate, questo è un istituto tecnico che ha l'aeronautica, e fanno corsi di questo tipo all'interno di una gara, per esempio l'ultima che abbiamo stanato, per dire, di una gara tra scuole e istituti aeronautici. La gara consiste nel costruire degli alianti o dei modellini, no, con le stampanti 3D, eccetera, eccetera. Però guarda caso, a presentare il corso c'è il generale, c'è quindi questa volontà proprio di entrare nelle scuole e occuparle davvero. Cioè, non è più una, c'è sempre stata questa commistione, volendo, no? Lo dicevamo prima. 4 novembre, la giornata delle Forze Armate, qualche scuola, no, autonomamente ha anche portato a fare, no, l'omaggio alle Forze Armate, eccetera, eccetera, che è già grave di per sé. Ma oggi è ancora peggio, come diceva Tommaso, cioè, c'è un disegno dietro. Sono tantissimi gli accordi firmati dai vari interministeriali, no, con le scuole, accordi fra i ministeri della difesa, dell'aeronautica, col ministero dell'istruzione. E un po' a cascata poi le regioni, per esempio la regione Lombardia, anche l'USR Lombardia ha firmato degli accordi, l'ultimo quest'estate, con tutte le forze militari. Quando noi diciamo militarizzazione, le diciamo tutte, perché dal piccolo, dalla polizia locale, passando attraverso i carabinieri, la polizia di Stato, la finanza, l'esercito, la NATO, come dicevo prima, sono nelle scuole. Ma addirittura a volte a fare proprio dei corsi veri di didattica extracurriculare, i militari della NATO fanno i corsi d'inglese, fanno le olimpiadi di sport all'interno della base NATO e vanno i ragazzini delle scuole elementari, no, dentro la base NATO. Questo è il. Quindi noi abbiamo, ci siamo interrogati sulla necessità, appunto, di questo osservatorio. Abbiamo capito che da soli, perché purtroppo il discorso che noi facciamo comunque passa all'interno delle scuole, ormai l'anestetizzazione è veramente forte. Molto spesso gli stessi insegnanti o i lavoratori della scuola, gli studenti, nemmeno lo sanno che ci sono in atto queste procedure. Noi che ci lavoriamo sappiamo anche come fanno, no? Presentano 100.000 progetti uno dietro l'altro durante un collegio, li approvi, non sai manco di che cosa stiamo parlando. Ti accorgi che un giorno non ci sono i tuoi alunni perché sono andati alla base NATO, cioè, e c'è questo disinteresse generale che porta a, insomma, gioco facile per chi vuole entrare, no? E quindi noi abbiamo detto, per far uscire questa cosa bisogna metterci una forza più grossa di quelli che possiamo essere noi. Quindi abbiamo aperto, attraverso un appello, a collaborare e aderire all'osservatorio, per cui ci siamo dotati di tutti gli strumenti, come dire, anche social, volendo, c'è un sito, c'è Facebook, Instagram, tutti gli strumenti, no? Un sito ben fatto, molto aggiornato quotidianamente di tutte le tantissime denunce che arrivano. E quindi quando abbiamo lanciato questo appello abbiamo raccolto le adesioni, che sono arrivate numerosissime, sia di organizzazioni, le prime ad aderire sono state organizzazioni di tipo, cioè di aree cattoliche, per esempio, che ne so, Pax Christi, queste formazioni di questo tipo qui, ma organizzazioni sindacali di base, oltre a noi, come dire, i promotori dei COBAS, hanno aderito sindacati di base come USB, CUB, e vari sindacati di base, e si aggiorna continuamente l'adesione anche di singoli professori universitari, docenti, compagni, chi ha a cuore la questione. Abbiamo prodotto proprio a livello pratico un vademecum, un vero e proprio vademecum, uno strumento proprio pratico di, perché contiene proprio delle possibilità, utilizzando le stesse norme esistenti nella scuola, ovviamente, forniamo degli strumenti, proprio una modulistica attraverso i quali, che ne so, il docente può opporsi, no? Se non riesce a bloccare la deriva, no? Bocciando questi progetti che arrivano nelle forme che dicevamo prima, può agire anche autonomamente, tirarsi fuori, no? E dichiararlo pubblicamente. Sono modulistica per gli studenti che non volessero, no? Alla fine, no? Come ultima istanza, non aderire, per le famiglie che non volessero far partecipare i propri figli, o per chiunque voglia denunciare questa ingerenza delle forze militari nelle scuole. Prima Tommaso mi chiedeva come si fa ad aderire all'osservatorio. Basta andare sul sito, che è ben fatto da questo punto di vista. Il sito si chiama proprio Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Se googliamo ci porta subito, perché tra l'altro è molto frequentato e quindi viene subito fuori dai sistemi di ricerca su internet, no? Quindi c'è un modulo di adesione, lo compili e lo invii e aderisci, e poi aderire in tutti i sensi, sia partecipare alle attività che semplicemente fare la denuncia, che noi fungiamo un po' da amplificatore, abbiamo un ufficio stampa, tra virgolette, che si preoccupa di raccogliere e divulgare le informazioni che recuperiamo, no? circa questo fenomeno, insomma. Questo è l'osservatorio, non so come... Guarda, infatti le operazioni e l'ispirazione dell'osservatorio sono preziosi sia in termini di registrazione delle micro fratture che questa offensiva sta creando proprio su tutto il territorio nazionale, ma anche rispetto ad un'attenzione sui processi interni che stanno cambiando, appunto, come diceva Riccardo, non in termini casuali ma in termini strategicamente calibrati, anche le strutture interne delle scuole, a partire dall'agibilità dei diritti sindacali, al dibattito interno negli organi collegiali, al peso nell'orientamento didattico, alla faccia dell'autonomia scolastica delle singole comunità educanti, che rimangono senza voce rispetto invece alle direttive gerarchicamente imposte dal MIM. Per cui il vademecum è sicuramente uno strumento di autodifesa e di possibile contenimento che l'osservatorio ha approntato e che sta sortendo, almeno per quello che riusciamo a vedere nelle zone che riusciamo a monitorare, una serie anche di interventi, per quanto non immediatamente incisivi perché catalizzanti sui numeri, però una serie di microfratture nei collegi docenti che innescano il dibattito e che comunque creano sensibilità. Però io volevo passare la parola alla professoressa Candida Di Franco, a Candida che gentilissimamente si è resa disponibile a chiacchierare con noi, perché sappiamo che Candida, all'interno, come dire, del dei coraggiosi che si accollano la gestione, anche il tentativo di gestire a livello nazionale una rete di iniziative e di segnalazioni che comunque vada sono impegnative in termini di lavoro, di processo dei dati e di archiviazione. E so che sappiamo che Candida sta contribuendo al tavolo che si dedica specificatamente all'elaborazione di strumenti didattici, che quindi ha un'attenzione più rivolta a come declinare una didattica di pace effettivamente all'interno di un'istituzione dove tendenzialmente il dibattito e il dissenso stanno trovando sempre meno diritto di cittadinanza. Per cui io passerei la parola a Candida, ringraziandola per la sua partecipazione. Grazie a voi, perché le occasioni per poter parlare di questa problematica sono sempre utili. Proprio perché volevo riprendere qualcosa che Riccardo ha detto, la consapevolezza o inconsapevolezza del corpo insegnanti su queste tematiche è veramente straordinario. Mentre il sito dell'osservatorio è visionato da tantissime persone, e questo ci fa molto piacere, dobbiamo comunque registrare che tantissimi collegi docenti sono ancora molto lontani dall'avere preso consapevolezza, e non è soltanto un problema della scuola ma anche della società, perché laddove si parla di allargamenti di base militare, di militarizzazione di territori sottratti alla cittadinanza, diciamo che la risposta tarda sempre a arrivare, e questo forse perché culturalmente non c'è alla base proprio una preparazione, un'attenzione a che cosa vuol dire militarizzare una società, il proprio territorio. E ovviamente quello che noi osserviamo di più è la militarizzazione della cultura a livello scolastico e adesso anche a livello universitario. Per ritornare alla scuola, la presenza dei militari nella scuola non ha soltanto lo scopo del reclutamento, perché appunto, come è stato detto sia da Crosetto che dalla Russa, c'è bisogno di svecchiare i comandi militari e tutto l'esercito che ha ormai persone di una certa età, e quindi questa presenza così massiccia ha sicuramente lo scopo del reclutamento. E pensate che questo aspetto del reclutamento può essere molto ben accetto dai ragazzi, soprattutto in quei territori dove abbandono scolastico e disoccupazione giovanile sono a percentuali molto alte. E ve lo dico perché io abito in Sicilia, a Palermo, e vedere molti ragazzi che vanno a Orienta Sicilia, che è una delle tante giornate proprio per l'orientamento in uscita dei ragazzi della secondaria di secondo grado, che con grande interesse guardano e seguono le attività proposte negli stand di esercito, marina e guardia di finanza. Quindi questo reclutamento purtroppo fa gola, cioè i ragazzi sono attratti, perché vengono ovviamente poi presentata la figura del militare, la vita del militare, quasi come una realizzazione di quei videogiochi dove loro vedono l'eroe che vince sempre contro un nemico e non si sa bene chi sia questo nemico. Ebbene, contro questa tendenza ad acculturare i ragazzi a quanto la cultura della guerra è normale, perché comunque siamo sempre circondati e siamo in uno stato di crisi, perché poi tra le altre cose i media non fanno altro che ovviamente creare questo stato di tensione, di costante crisi. In questo scenario la scuola si trova molto schiacciata. E quindi la consapevolezza che dovremmo opporre, che ci dovrebbe aiutare a opporci a questo tipo di acculturamento, ci dovrebbe, in questo momento io sento che sia veramente l'arma che la scuola ha per aiutare i ragazzi a non cadere in questo tipo di proposte. La scuola ha dei compiti importanti, è quello di costruire questi percorsi di pace non solo perché ce lo chiedono le linee guida del Ministero, proprio dove l'educazione alla pace è parte integrante del curriculum dei ragazzi, ma perché riteniamo che soltanto se si matura una forte e consapevole capacità di accettazione dell'altro, vedere nell'altro se stessi, una capacità di ascoltare, di lavorare in gruppo, quello che permette di ecco appunto essere gruppo e non dare spazio a quel protagonismo dell'individuo che spesso è una forma diciamo di esaltazione di se stesso che può portare anche alla sopraffazione. Sono tutte tecniche che non dobbiamo veramente riprendere, perché io ricordo, io ho 36 anni di servizio dentro la scuola pubblica statale e dico in 36 anni l'educazione alla pace è sempre stata, ha sempre attraversato le discipline e i percorsi. Credo che bisogna riprendere partendo proprio da quello che è l'analisi degli stereotipi, dei comportamenti degli stereotipi sia nel linguaggio, nella postura, perché veramente vedere i bambini portati all'aeroporto militare di Birgi in occasione del centesimo anniversario dell'aeronautica e vederli tutti felici e contenti, mettersi in posa e fare le fotografie, e questo è accaduto dappertutto in Italia, abbiamo visto la Meloni a Roma con i bambini che sventolavano le bandierine, ma vedere quanto i ragazzi utilizzano queste posture, queste posizioni, assumono questo, e soprattutto i maschi, perché diciamocelo, è una cultura, quella militare, una cultura di sopraffazione, di comando, di sottomissione dell'altro, del nemico, è una cultura maschilista che ovviamente si basa su tutto quello che per secoli abbiamo vissuto e che ha portato anche a questa, come dire, triste cultura di morte perpetrata ai danni delle donne, mi riferisco ai femminicidi. Quindi nella scuola occorre rilanciare una cultura della pace e lo si può fare partendo proprio dall'analisi dei propri comportamenti, del linguaggio che utilizziamo, riconoscere nell'altro se stessi, riconoscere le debolezze mie e dell'altro e insieme poterle superare, perché la pace non è soltanto ovviamente la mancanza di guerra, è chiaro che per i piccoli della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e per certi versi anche i ragazzi delle medie, l'astrazione è una abilità un po' più complessa e quindi c'è bisogno di partire dal proprio vissuto, da quello che dalle dinamiche della classe, del gruppo classe. È importante che si stabiliscano proprio le regole per poter stare insieme e vivere serenamente e correttamente insieme. A livello di scuola secondaria di secondo grado è fondamentale un lavoro sulle fonti storiche, cioè proprio la ricerca delle fonti storiche, l'analisi della storia e ricercare proprio quei processi che hanno fatto maturare i conflitti, capire come le economie, gli interessi economici hanno preteso, occupato territori. Quindi è un lavoro che fatto in maniera ampia, approfondita, può dare quantomeno una certa consapevolezza, dare strumenti di autonomia ai ragazzi per sapersi orientare e soprattutto per non credere, ecco, che il militare ha quel bel compito di difenderci, ma difenderci da cosa? Questa gente che entra nelle nostre scuole non ha mai speso una parola su quello che succede nei campi di guerra, mai. Loro parlano del loro compito quasi di protezione civile, loro sono presenti in caso di terremoto, loro sono presenti in caso di alluvione, aiutano, supportano la popolazione civile. Come non dire grazie a questo operato? Cosa che è, diciamo, ultimamente c'è stata, è vero, ma il militare è nato, è istituito, è un'istituzione, l'esercito è un'istituzione col compito della difesa. E purtroppo questa difesa è ormai è diventata, cioè, per aggirare l'ostacolo della Costituzione, ormai abbiamo supporto, intelligence, noi mandiamo le armi, addestriamo i militari di paesi che sono in guerra, da Sigonella facciamo partire il carico di armi. Bene, noi non siamo in guerra sulla carta, ma lo facciamo attraverso tutte queste altre vie. Ebbene, questo se deve essere, come dire, ragionare su queste cose, analizzare la realtà, conoscere, avere le fonti per studiare, conoscere, approfondire e creare una propria cultura, una propria coscienza, ecco, una capacità che ci permetta di leggere la realtà. Io credo che la scuola ha veramente un compito importantissimo e indipendentemente dall'educazione a questo, all'educazione a quest'altro, adesso l'educazione all'affettività, che il ministro, anziché appunto avviare qualcosa di più serio, ci ha indicato questa strada delle 30 ore facoltative, così come la risposta ai femminicidi non è altro che una risposta di inasprimento delle pene. Riteniamo totalmente incapace questo governo, ma anche quelli precedenti, di capire veramente, di cogliere qual è la finalità educativa della scuola, che nei confronti della pace è fondamentale per creare cittadini consapevoli e rispettosi. Candida, sei stata veramente chiarissima ed esaustiva, perché hai toccato dei temi sia generalissimi, ma sei stata capace anche con il dono della sintesi di dare indicazioni pure fattive rispetto alla possibile, al possibile esercizio della didattica. Mi ha colpito, giusto per fare una sorta di riassunto delle cose che a me personalmente rimangono nel cuore, è che hai declinato l'educazione alla pace come ricostruzione del tessuto collettivo, che effettivamente non solo all'interno della scuola, ma all'interno della scuola purtroppo, soprattutto a seguito della pandemia, è diventato terreno di sperimentazione per il disciplinamento dei corpi e dei desideri attraverso la distanza. Poi hai parlato del valore della partecipazione e dell'importanza all'interno di una comunità, per quanto piccola come una classe e indipendentemente dall'età, della negoziazione delle regole e della non rimozione, come dire, del conflitto. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è buono riportare alla luce è questa sorta di retorica di offensiva anche sotto il profilo cognitivo-culturale, di riscrizione dell'immaginario nella percezione delle forze armate come custodi della difesa, senza nessuna macchia rispetto invece alle possibilità di offesa che invece muovono anche l'apparato militare. Per cui tantissime grazie. Sì, se posso intervenire un momento, direi che mi verrebbe da dire che ha proprio il modello didattico che è in auge in questo momento qua, cioè la scuola meritocratica, è un ostacolo enorme, perché è un modello in cui il migliore c'è un vincente e un perdente, non c'è un gruppo, cioè porta in sé la piramide della vittoria e della sconfitta, anziché quella dell'attraversamento della contraddizione. Volevo aggiungere anche un'altra piccola cosa, che effettivamente su questa questione dell'immaginario che si dice, no? Di cui voi avete fatto riferimento prima, ci sono proprio io ho l'impressione, anche lavoro un pochino sul ricordo della scuola mia e di quello dei miei figli, così, delle enormi lacune nel materiale didattico. Cioè esiste una narrazione della guerra che te la rende, rende perfettamente chiara la sua assurdità e inutilità, no? Se non su per degli scopi altri, in qualche modo, no? Ci sono dei libri meravigliosi che sono stati scritti, dei diari, ora penso, non so, a Nulla di nuovo sul fronte occidentale, un altro di un austriaco, si chiama Tappe della disfatta, gente un po' come Lussu, Emilio Lussu, cioè gente che la guerra l'ha fatta e nel raccontartela ti fa vedere quanto sia insensata, dolorosa e inutile, crudele, ecco. E questa cosa qua, almeno nelle scuole che mi è capitato di incontrare io nel mio percorso, c'è molto poco, perché c'è la narrazione delle dinamiche della bellica, il fronte, chi si sposta di qua, chi si sposta di là, e appunto il vincitore e il vinto. Ecco. Questa logica binaria, no? Infatti se volessimo uscire anche dal tema strettamente militarizzazione, ma è la scuola in sé, in generale, che risponde a questa logica che viene dettata da chi le sorti della scuola oggi in Italia e in Europa è disegnata dai gruppi industriali, dall'ERT, no? Le competenze, cioè queste nuove modalità didattiche che portano all'interno delle scuole, questo insegnano, no? E quindi c'è anche, mi ha fatto pensare anche prima Andrea, ma anche Candida, no? La ricerca delle fonti storiche non esiste più all'interno delle scuole, ormai devi dire sì, no, vero, falso, devi essere valutato in base alle competenze, quanto hai da spendere in vista del futuro lavoro che dovrai fare. Quindi una scuola improntata a questo bracciantato tecnologico che ormai è diventato quello, no? È vero in generale. E poi anche questo deturnamento di senso, no? Sulle parole, le guerre le chiamano missioni di pace, cioè l'Italia non fa la guerra, no? Ma fa le missioni di pace. Gli accordi che firmano, no? I protocolli d'intesa si chiamano, fra i vari ministeri, alla fine parlano di educazione alla legalità. Però cioè, noi che insegniamo dovremmo anche sapere che educare, se fosse vera, no, questa questione, educare alla legalità, non chiami il poliziotto che te lo viene a spiegare, no? Cioè, non mi sembra che sia quello, non partiamo dalla coda, no? Dalla sanzione, dall'aspetto sanzionatorio, se fosse quello. Quindi evidentemente, dice Tommaso, il disegno è un altro probabilmente, no? È così che, ne so, parlare della violenza sulle donne, nelle scuole ora arrivano le poliziotte, i poliziotti. È la polizia che viene a parlare, no, proprio il contrario di quello lì. Impone una deserzione civile. Prego, scusami. No, volevo aggiungere un altro elemento che nelle scuole sta diventando un vero problema, che è la digitalizzazione. È una digitalizzazione forzata, molto pesante. Chiaramente parlavamo poco fa delle fonti storiche, della lettura, del confronto, ma immaginiamo quando la realtà aumentata attraverso i visori, eccetera, prenderà totalmente, sostituirà addirittura le lezioni, perché l'esperienza virtuale è di gran lunga più importante di tutto ciò che è la teoria, no? E noi ci troveremo veramente degli automi a scuola, cioè dei ragazzi che sempre più nel proprio visore, quella comunità, quel gruppo, quel fare gruppo, quel lavorare insieme, si perderà totalmente. E la digitalizzazione è un altro elemento di controllo, perché se lo guardiamo da parte delle scuole, quanti dati abbiamo venduto a Google, a questo e a quest'altro? È un business enorme quello della digitalizzazione, e la scuola purtroppo è un terreno che non ha saputo completamente proteggersi da tutto questo, da un mercato. La scuola è diventato elemento del mercato globale ed è veramente molto, molto pericoloso. Qua apri delle questioni enormi. Sì, anche all'interno del nostro collettivo, cara Candida, ci sono posizioni variegate rispetto e nel nostro podcast abbiamo intenzione di dare voce a diversi orientamenti che vanno da quelli più, come dire, radicalmente luddisti come i miei, a quelli invece di persone che pensano ad un uso intelligente, come dire, autogestito e non eterogestito delle tecnologie. Comunque avremo modo di parlare di questa cosa e io penso che siamo... Sì, no, volevo solo... Adesso andiamo a chiudere perché il tempo è quello. Ma no, avete parlato di tavoli. Se esistono un attimo per tornare all'osservatorio, una strutturazione in tavoli, Sì, l'osservatorio è strutturato in tavoli, cioè ci sono delle tavole. Alla fine dibattito avviene. Gruppi di lavoro che si tematici, non tematici, geografici. Sì, no, tematici. Tematici. E quindi c'è chi si occupa delle questioni didattiche, quindi c'è un tavolo. Funziona con le mail, cioè chi si approccia sa che deve dare la sua mail, può aderire a una mail generale che è tutti i componenti, quindi a volte diventa anche un po' caotico per chi come Andrea è poco, cioè per dire, però purtroppo lo strumento è quello, bisogna anche imparare un po' a filtrare le cose che passano ovviamente. Però si lavora essenzialmente via mail e si fanno fino adesso le assemblee nazionali le abbiamo fatte online, per dire, no? Visto che l'osservatorio si muove dalla Sicilia, dalle Alpi alle piramidi, no? Su tutti i territori, quindi è anche difficile trovarsi poi fisicamente, no? Però degli incontri invece fisici ci sono stati, geograficamente distribuiti. Ah no, certo, ci sono, ma anche le cose che facciamo, per dire, noi per esempio, io sono di Varese, quindi oltre alle presentazioni, no, che facciamo pubblicamente, quindi ci presentiamo proprio fisicamente, le iniziative di denuncia, la partecipazione delle scuole, le manifestazioni ovviamente, ogni occasione per portare, no, il nostro contributo è sempre buono. Comunque l'osservatorio in sé lavora così, per tavoli appunto, chi si approccia, già chi vuole aderire dal sito, come avevamo detto, compili questo form, no? Dichiari la tua adesione a uno dei gruppi, a quello che vuoi fare all'interno del... è aperto a tutti. Perfetto, dai. Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie Candida, grazie Riccardo, grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie e voi. Niente, teniamoci aggiornati. Certo. Adesso allora... passiamo alle rubriche della nonna, le ricette della nonna Gemmina e le lettere della posta del cuore. Benvenuti alle ricette della nonna Gemmina. Oggi vi proporrò ninchiareddi alla precaria. Ricetta semplice per una buffata di classe in senso marxista. Ingredienti: impasto trafilato su tradizione autoctona, a lunga essiccazione dei diritti sindacali, humus di cecità sugli obblighi contrattuali, una grattugiata di gratuità, burro quanto basta, cottura a pressione psicologica. Preparazione: i minchiareddi, pasta dalla nota forma fallica, vengono preparati a seconda dell'estro locale, per dimensioni e consistenza, in segreteria o direttamente dal dirigente scolastico. Tagliate i fondi e spezzettateli a forma e misura di circolare ministeriale. Ottenete l'humus di cecità per cottura a pressione psicologica. Quindi approntate una sovrabbondante porzione di minchiareggi e, grazie al bon ton bulgaro di colleghi, organi collegiali e sindacati, ma soprattutto grazie alla generosa dose di burro, la razione finisce al precario proprio là dove deve finire. Alla prossima! Carissima rubrica dei cuori infranti. La scorsa puntata avete parlato degli anni 70, delle trasformazioni del mondo della scuola, delle sperimentazioni e della didattica. Tutto vero, ricordiamo però quanta violenza vi era in quegli anni, quanti ragazzi saltavano le lezioni, quante scuole diventavano facilmente dei campeggi per sfaccendati? A quale costo furono fatte quelle sperimentazioni? A cosa portarono? Oggi, diciamolo, queste cose non accadono più. L'attenta vigilanza del corpo docente, unita, quando serve, al contributo della forza pubblica, fa sì che un tale spreco di tempo e risorse siano evitate. Concentriamoci sui valori importanti, concentriamoci sul merito, sulla valutazione, in modo che chi eccelle possa ambire alle posizioni che merita, che so, un posto in banca, o addirittura una posizione di governo per dirigere l'impresa paese. Vi ascolto sempre con grande interesse. Mario, da Milano. Caro Mario, è con soddisfazione che rilevo da parte tua la percezione del cambio di passo avvenuto. Le trasformazioni non sono più necessarie, e tantomeno le sperimentazioni. Non occorre più trincerarsi mestamente dietro a slogan quali «non c'è alternativa». Se prima toccava quasi scusarsi di non essere in grado di offrire un'istruzione paritaria, magari per mancanza di fondi scolastici, oggi si può alzare la testa e guardare negli occhi la realtà. Chi è ricco se lo merita. Chi non è ricco è perché non ha saputo sviluppare un valido modello imprenditoriale. I nostri figli impareranno presto, grazie anche alla presenza di personale armato addetto al mantenimento dell'ordine, che i privilegi, oggi, si chiamano meriti. In una lotta lunga come questa è necessario combattere con gioia, dare luce, dare voce, dare aria. Il vento cambierà ad un certo punto, ma non è questo il punto. Il punto è che intanto lo respiri il vento, e resti vivo, e resti in movimento.